proposito di DPCM, cosa c'è uscito? Non ho letto ancora niente, devo cercare la fonte, la gazzetta ufficiale, se è già uscita. Ma le prime notizie che è fino a aprile, dal punto di vista dello stato d'emergenza. Ma se arrivava la cosa inglese, oggi hanno battuto tutti i record di vittime, quindi. Arriva, è già arrivata in Veneto, non sanno come svogliarla. Boh, non lo so. Ma mi chiedo pure se il vaccino andrà bene per la cosiddetta variante inglese. Se c'è già una mutazione, un altro ceppo, boh. Cercheranno di smerciare i vaccini più in fretta possibile per non buttarceli, capito? Vabbè. No, è accertato che è efficace anche lì, perché diciamo comunque il virus dal punto di vista delle caratteristiche rimane sempre quello, quindi è efficace. Il problema è che ne stanno sorgendo degli altri, ce n'è uno dal sud-est asiatico, credo, un altro da non so dove, quindi queste mutazioni certo bene o non fanno, soprattutto se sono tutte verso il male, capito? Verso il contagio ancora più feroce, questo è 50 volte più contagioso, quindi anche la mascherina a queste proporzioni diventa inefficace, penso, o comunque è meno efficiente perché devi stare a 15 metri uno dall'altro, non è cosa pensato. Comunque a questo punto facciamo gli antichi, facciamo qualche promessa, qualche santo, facciamo i candeliti bis, cosa vuoi dire? Il cavolo, addirittura 50 volte più contagioso. Sì, la mascherina già di suo non è che... Vabbè, mi metto la maschera piano facciale, mi metto direttamente il completo NBC e sono a posto. Se continui questo passo, tu ci scherzi, ma... Oi. A numeri di vittime, in un giorno solo in Inghilterra 1500, credo che siamo 1560, 1540, una cosa del genere, cioè in un giorno solo è una cosa da paura veramente. Un sesto di tutto sorso, sparito in un giorno solo, credo che siamo 5000 abitanti, fate il conto. Sì, cacchio. Perché se diventa preoccupante bisogna correre davvero ai ripari. Ma non avrò pindacciato io, no? Con queste cose da collezione che proprio diventeranno di uso comune. Ma non lo dire che ce l'è, se no magari ti entrano in casa per rubartene, se come nei film drammatici, no? Che questi film oramai sono sempre meno di fantascienza, mi sembra. Infatti, di fantascienza non sono più. Hanno fatto una nuova serie, The Stand, scritto così, The Stand, credo che sia di, come si chiama, quello che fa sempre roba strana, Stephen King. E inizia con una pandemia che mi sembra che ci prendano per il fondello, no? Una pandemia terrificante, con il 99% di mortalità. Non so se l'hai sentito nominare, è sul canale, il canale era, mi va a trovare. No, ma ne hanno fatte tante. Qual era quella in cui c'era anche un attore italiano? Che poi andavano in quel laboratorio super protetto, che diventavano zombie praticamente, no? Avevano ogni condizione, però in questo laboratorio c'era il vaccino. Lui c'era atterrato con l'aereo, però non mi ricordo che era, se era Brad Pitt oppure se era Coso, Tom Cruise. Forse tu ti riferisci a World War Z con Brad Pitt, però è un film, non è una serie. Sì, era tipo zombie, tipo gente veloce poi che correva tipo Bolt, no? World, no, World World Vaffan Napoli, guerra mondiale Z sarebbe in tradotto. Sì, Brad Pitt atterravano in Israele, poi anche lì, nonostante il muro. Sì, no, forse io credo che tu alludessi a Survivors, la serie. No, avevo proprio appena detto che c'era Israele che poggiavano gli elicotteri sul muro e questi stavano appiccavano su volte, cioè c'è una cosa proprio pazzesca. Però, sai, con quello che stiamo vedendo mettiamo le mani avanti, chi lo sa? Perché nessuno si aspettava questo, invece è successo. Quindi oramai bisogna anche stare attenti alle previsioni che si fanno, quindi diciamo boh. Sì, praticamente lo stile degli zombie di Romero è superato, no? Il primo film, quello del supermarket, dove andavano piano, no? Questi sono, questi film che fanno adesso sono dei zombie tipo 28 giorni dopo, no? Che corrono come 100 metristi, come missili, è un po' più uguali, fanno me, lo stesso Io sono leggenda, tutti veloci sono, sembra più un'infezione tipo non gente morta e resuscitata, ma tipo infezione tipo rabbia, però molto peggio. Molto peggio. Beh, tecnicamente c'è già quella, comunque, quella possibilità di comportamento, perlomeno. E la dà esattamente quel tipo di droghe cristallizzate che l'abuso fa uscire di testa, quindi perdono la condizione di qualsiasi cosa. Pensano di volare, pensano di poter far fuori qualche. Chiunque, danno anche una forza non indifferente tra l'altro. E poi, diciamo, fare fine brutta comunque, perché mette sotto pressione tutto l'organismo che alla fine muore. Sì, prima o poi si schianta la pompa. Forse la crocodile, boh, io ho sentito la più terribile dovrebbe essere la crocodile, proprio ti stravolge la mente, è una cosa folle. E fai azioni anche tipo cannibalismo, boh, sanno più cosa inventarsi. Non basta la roba che ci manda la natura, ci manca anche la roba artificiale per ammazzarci meglio. Eia. Gianfra, io devo staccare davvero, vediamo se è rientrato Claudio o Giulio, io devo staccare così devo da mangiare la mamma e mi tolgo il dente anch'io, dai, anche se non ho tanta voglia, ok? Nel caso dopo. Se no ritieniti salutato, ok? Ciao ciao. Marco, anch'io ne approfitto dato che non c'è nessuno per andare a mangiarmi qualcosa, così almeno mi girisco prima e sto più tranquillo. Ok, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Io sono tornato. E comunque stava piovendo qua, eh? Anche qua mi più avvicinando già fra, niente di aspetti, ma sta posto giù buono. Io ho finito adesso con Marco che è andato a controllarsi il forno, quindi se ce la fa riprenderà forse più tardi dopo mangiato. Anche io mi devo allontanare e devo mangiarmi qualche cosa. Ci sentiamo dopo eventualmente a casa. C'era Giulio ma è sparito di colpo. Ma che sta la luce? Perché lì c'è un problema oggi. Al punto è un casino. Ho sentito che gli ex colleghi mi hanno detto che anche il totalizzatore oggi è da attacca attacca. Va bene, vai pure, già sono qua, non c'è problema. Ok, a più tardi. Ciao ciao, dopo. Andiamo, mamma, per il re, dove sei, con chi sei? Con due invece di mocco, se vuoi, ne metto anche uno. Qua sono io. Ora, va bene. Sei su gas, a me? Allora. Gava, stai sorgendo? 140? No, è 430, ma ci vediamo, stasera tocca a 430, infatti stavo guardando se era tutto a posto, ho dato appena mezzo giretto di Mickey Game, dove sei che l'ho toccato pure, no, sembra che sia una vabbè, cosa deve fare? Comunque, già risponde bene, là. Sì. Io non c'era un po' di giorni che non lo usavo, ce l'avevo nascosto in 40 metri. Ho attaccato la monta oggi, 140 è spento, ho dato priorità a questo. Poi mi sono provato quello con gli Vulcano, quel Colt, va benissimo, dai. Anche quello va tutto bene, tutto capo e tutto roggero. Così ti va, ti affugge tutto. Sì, fatto lo letto, ho preso anche quel Galaxy di Dani, lo porta lunedì, capito? Allora, sono perso di quanto mi stavo facendo un po' di sedimentari. Almeno c'è un Galaxy Saturnetto, bello, nuovo, che funziona. Rimbongono l'MB più 5 e su chi andiamo. Ultimo per la truppa. Non c'è niente. Alla fine invece, altri 200 euro per comprare un vintage vecchio, e invece, come mi ha detto Gianni, mi ho preso quello, vabbè, mi è sempre piaciuto, perché non l'avevo posto prima, la verità. Invece adesso c'è la scrivania apposita, lo metto sopra un nacche, che è la stessa misura, l'MB più 5, e va bene. Abbiamo un'altra radio, che almeno funziona. Quando voglio usare un baracchino, so che posso portare su un baracchino serio, ma anche gli altri sono belli, sono molto più vecchi di quelli, quello c'ha più cose. Break. Hai registrato il break? Sì, quello lì alla fine, il Galaxy, all'interno è un Plutoni. Ha gli stessi trim, la stessa scheda, tutto un Pluto e mio alla fine, capito? Gappa, avanti il break. Capito, ma questa è una prova di questo baracchino, Massimiliano. Claudio, dammi un controllo, Massimiliano. Ciao Davide, buonasera, ben entrato. Allora, all'inizio è uscito un po' spezzettato, magari non avevi schiacciato bene la portante. Comunque, Radio 5, Santiago Nofre. Ok. Tu, Claudio, dammi un controllo. Un abbraccio grande grande, ben riascoltato dopo tanto, vai. Allora, segnale qua, non so dove sei, se sei a casa, laboratorio 9+30, pieno, e questo smitter è anche abbastanza preciso. La radio sì, hai un leggero, come si dice, mancamento ogni tanto, forse vuole pulito il microfono. Quello là, Massimiliano, quello che mi ha tolto il microfono non lo fa più, perfetto, era un po' polveroso, detto, se metto ce l'avevi al lavoro, funziona perfettamente, pulito tutto, spruzzato lo spray, spennellato, insomma, adesso va bene, avanti Gavi. Ascolta, adesso io sono in lab comunque, ci provo un altro microfono, vediamo un po' se va meglio con questo microfono, questo stavo riparando questo Intec 500S. Un attimino che faccio il cambio, dai. Ehi, controlla il microfono, Gavi, perché la radio sta andando bene, benissimo. Avanti Massimino Bulldozer, cambio. Fa un passaggio un attimo, guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prove tecniche di trasmissione. DS430S e non ce n'è per nessuno. Guarda ora quest'altro microfono, 1, 2, 3, 4. Questo va meglio, Gavi, la radio 5 è perfetta, non hai mancamenti, nulla, vero Massimiliano? Sì, a posto, questa va bene, Gavi. Ok, va bene, anche tu mi arrivi 9+30, mentre Massimiliano mi arriva 7, 5 di radio. Vabbè, lasciamo vicini. Riprendi Massimiliano che vado a girare il forno, sopra. Ehi, a positivo, va bene. No, è ultima quella radio, Gavi, va benissimo. Gappa. Tutto a posto? Tutto a posto e niente in ordine. L'apparecchio te lo sto finendo, Tranquillo, dai, non c'è problema, Gavi. Non ti ho disturbato, dai, non c'è problema. quando già lo sai. E beh, al lavoro come sta andando? Quest'acqua che sta facendo? E come sta andando? Sono così sopra a casa, cazzo, sono già da prima di Natale, ancora non ho fatto neanche la giornata. Cesso, cesso, cesso, cazzo. Non è possibile, questo tempo è inclemente, Io aspetto adesso, cazzo, adesso si abbassano ancora di più le temperature. Sì, vabbè, Gavi, allora se c'è freddo non mi interessa più di tanto perché alla fine già sono chiuso dentro la cabina. Il problema è che la pioggia, capito, è tutto fango da tutte le parti e quindi è quello che ci sta un po' bloccando. Allora, noi abbiamo lavorato il 22 di dicembre, a Trugonto, dal 22 dicembre siamo al 15 di gennaio e sono sempre fermo. Caspita, caspita, pazzesco, Vabbè, smetterà un po' di piovere, cazzo, è tutto allagato, cazzo, è tutte inondazioni. Già i carciofi sono già zuppi d'acqua, è un casino per la verdura pure, le campagne sono proprio inzuppate. È un casino, Gavi, vabbè, cosa ci vuoi fare? Purtroppo è un casino, vabbè. Poi già lo sai, quando mi chiami al telefono per portarmi quella cosa lì, là. Ieri ho fatto un controllo, ho sistemato questo intake, appunto, le sto adattando anche un microfono, visto che questo va bene, mi sa che ci lascio questo. Sì, vabbè, poi già ci sentiamo anche per telefono, dai. Un saluto a tutta la greffa, diciamo, dai. A Gaia anche Daniele, dai. Gaia giù bene, a PlayStation, che lo sai. Daniele giù. Noi eravamo da Basi Antonio, con Daniele stava risolvendo un po' di casini. Ha comprato il telefono nuovo, io lo stavo tutto un po' sistemando, capito? E poi siamo saliti un 10 minuti. Vediamo un po', Claudio, rientratosi. Io aspetto guardando un video. Ah, positivo, io guardo un video, là. Cava. Tu, Gavi, sempre quell'antennino c'hai lì, no? Sì, è rimasto invariato. Vediamo un po' il wattaggio che sta uscendo, questo apparecchio. 4 watt. Ma quello c'ha un trimerino proprio attaccato al modulatore, se lo apri quello lì gli aumenta la modulazione un po'. È un 34 canali, ma ci vediamo. Ma non c'entra niente, va, già lo conosco, il 34 canali, però c'è un trimerino che le puoi aumentare un po' la modulazione, mi hai capito? Vabbè, vediamo un po', dai. Perché adesso mi tocca riaprirlo, è un casino, adesso me l'ho chiuso. Comunque c'è sempre meglio di quell'Inter che c'è tu, No, magari avrà una radio più bella, o no? Io ho voglia, questo è molto più superiore dell'altro. Sì, sì, l'altro non l'ho più usato. Allora, lo useremo, dai, per farlo scaldare un pochettino, per farlo riprendere un pochettino. Cava. E io anche magari quando rientri la sera così, tanto mi sa che sempre qualcuno c'è nel canale 10, io non so, io non proprio, ma magari Claudio e qualcuno c'è sempre dopo le 9 e quell'ora lì, dai. Massimiliano, ma io sono in laboratorio, non lo sto più usando quello di casa. No, sto dicendo a casa, quando rientri c'è sempre qualcuno, se ti vuoi fare una chiacchierata o una cosa, mi capito. Avanti, Claudio. Sì, stavo guardando qualcosa al telefono. Ciao, va bene la radio, dai. Ottimo, ma la truppa. Cazzo di radio, te qua. Questa schereggia forte. Sì, che è un peccato usarla in AM, uso 140, capito? Questa la uso in bando laterale, ma per ascoltare, poi se magari devo fare qualche passaggio. Come è capitato l'altro giorno, sono andato da amici di Italia, di 80. Fatti bene, capito, che di poi sono accordati, no? Non ne hanno stazionati, quindi non c'è bisogno manco l'accordatore, niente. Molto bene, perché non lo stai usando il vicolo di casa? Non ho tempo, l'ho usato quando c'era il Covid, che ero a casa, infatti. avanti, come tu sai, ho piazzato l'antenna e tutto quanto, però adesso c'ho pochissimo tempo qua, mi è rimasto pochissimo tempo. Vabbè, dai, cerca di farlo parlare questo tempo, di riprendere la normalità, anche se non è facile, però purtroppo è così. Avanti Massimiliano. Ehi, positivo. L'hai guardato il video qua? Sì, perfetto, perfetto. Anche okay, l'ultimo segnalone. La stessa vedere la radio allucinante, io mi sono messo le cuffie perché c'è Gaia che sta giocando con la PlayStation, se non la disturbo là. KK, aspetta che sono un po', aspetta, non lo sappiamo. Ok, va. Aspetta un attimo. Un watt, va, così vuole, un watt. E io vai così un watt, sì, 9,25. No, solo radio questa, oh, Claudio, solo radio. C'è le picchie allucinanti da 9,20 a 9,25. E come quell'altra mi ha detto Gigi che c'ha le picchie micidiali sganciate. Sganciata c'è le picchi micidiali, agganciato sono un po' più stabili, ma comunque incrementa un bel. E quanto li fai come segnale? 2 più 30 abbondante. Io mi immaginavo da 2 ore e mezza a 1:15, non lo so perché 3 pezzi ho fatti, ma non ne ho, non ho toccato niente, quindi con lineare l'ingresso è quello, la radio, l'ingresso, l'uscita è quella, tutte le altre radio hanno 5 watt, 6 watt massimo, perciò siamo nella norma, dai. Già va bene, già va bene. E questa bestia che ha 15 watt di portante, 40, 50 modulati, è allucinante questa radio, minchia che è, vabbè. Trappa di Roggio, avanti Gavi, riprendi. E tu Claudio, cosa stai facendo di bello? Adesso che sei in pensione. Nulla Gavi, per non dirti un gergo porcaccione, in questo periodo niente, mi ero organizzato benissimo come cognato, commissioni, cose, ufficio, vai, vieni, torna, fai e metti, e poi con questo Covid è un casino, niente, a casa e a casa, Gavi, niente di nulla, sono uscito solo la mattina a prendere un caffettino qua proprio vicino a casa e poi a casa. Adesso proprio ci sta, ha cambiato il modo, il comportamento proprio ci ha cambiato. Non puoi fare diverse cose più come prima. Oh, Gavi, oltretutto adesso dal 16 gennaio cambia ancora. Insomma, si sta mettendo a dura prova, Massimiliano, a dura prova. Ehi, cosa ci vuoi fare? Anzi, guarda che almeno, diciamo, la tua categoria sta facendo lavorare, ma, diciamo così. Beh, per quello già mi ritengo un po' fortunato, da quel lato lì. Molta gente non ha neanche aperto ed è in crisi proprio profonda, sia bar che ristoranti, capito? Eh sì, stavo sentendo un po' la televisione, cazzo, un po' il casino, ma vedrai che prima o poi ci sarà qualche rivolta di tutti e succederà un casino nero. Certamente, perché cazzo, rimanere senza lavoro significa non avere soldi per pagare l'affitto e diverse cose, anche da mangiare, cazzo, molta gente in crisi, cazzo, è a corta di denaro proprio, non lavorando. Anche quello è il casino, vabbè. Piano piano, vedrai che si risolverà tutto, speriamo. Avanti qua. Ia, e questo è l'altro MC60, infatti lo stacco si sente di più qua. Questo è quello più vecchio. Ti ricordi che te l'avevo prestato a te, che ci manca il un office sopra, quello lì è. Massimiliano, la luce è mancata anche a lui. Forse è mancata la luce oppure è scusato il telefono qua. No, non c'è scusato il telefono, Massimiliano già avviso, non c'è problema. Scusa, c'è un blackout ogni tanto a troncolare lì in quella zona. Sicuramente ha pizzicato anche lui adesso. A meno che Daniele aveva attaccato il forno e ha spento tutto. Ah, così, perché proprio qua c'era Giulia ed è sparito, sicuramente è mancato a Ruccio. Ehi, comunque c'hai sempre una bella radio, hai delle belle radio qua, forte e chiare. Queste sono i miei pupilli, io dal 1986 chiuso questo tipo di radio, ne ho tante, ho tanti baracchini, ho tanti bei baracchini base che funzionano molto bene con il MB più 5, con il Rame più 3, però queste hanno una professionalità nella modulazione che non ce n'è per nessuno. Questo ce l'ho 10 anni, ho questa radio, non ho mai fatto niente, capito? Forse la più vecchia che ho, perché il 140 è molto più recente. 440 che avevo me lo sono venduto perché crea un sacco di problemi, stava già iniziando a mancare di nuovo, l'ho venduto. E c'ho il 140 e il 430, che già le ho viste a casa di Massimiliano più o meno, già le ho avute tutte e due lui. Ma quelle radio sono professionali, c'è poco da fare, cazzo. Sono le Ferrari e Baracchini, cazzo. E danno pochissimi problemi. Capito. Sì, ho venduto quella che abbiamo cambiato relè noi, amici, che mi ha cambiato relè tu, non noi, tu. Ricordi, quella lì l'ho venduta. E mi sono preso un bellissimo 140, nuovo, e da meno problemi, capito? E poi c'avevo sempre il 430, che è simile a quella che hai visto tu, con senza l'accornatore, mancano delle cosettine, meno memorie, però come ricetrasmettitore non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Io le copro anche, le copro, perché sono veramente radio che io ci tengo tantissimo, tantissimo, e funzionano bene. Qua non funzionano più, le mettiamo dentro la radio e siamo i baracchini, capisci? Eia, sono già vintage quelle, oramai sono diventate da maturi proprio. Sì, oramai, perlomeno io ho speso tante soldi anche in radio più professionali di questa, di ultima generazione anche, o di penultima generazione. Però alla fine io ho tolto tutto, non so se hai visto, si è passato via Milano, ho tolto direttive, ho tolto tutto, c'ho solo un'altra, un'antennina piccolina per le VLU, proprio piccolissima da un metro, e il dipolo a 5 bande e basta, ma sicuramente toglierò anche quello perché tanto non mi interessa più l'attività amatoriale. È una bellissima cosa da fare, però io non ho mai avuto passione, quindi è inutile continuare a cincischiare. Faccio CB come sempre, basta. Massimiliano. Ehi, io sono qua, vi stavo ascoltando. Abbiamo rilanciato, non hai ripreso, penso che ti ha mancata la luce. No, sono andato a fare la pipì, dai. No, perché lì c'è stato un bloccato stasera. Pensavo avessi pitticato anche a te. No, sì, stasera sì, non c'avevo linea internet, c'era di nuovo la squadra, ieri la stessa cosa, e questo vento ha fatto un po' di casino qua in zona, eravamo qua tutta la sera senza la luce. Infatti c'era Giulio, ed è sparito, non so se si è allontanato o se non ha toccato, non lo so, ma penso che sia mancata la luce sicuramente. Ieri c'era altro vento, no? Stava sfiammando quel cavo di cavo, alla fine si è rotto, è caduto sopra la linea telefonica, ha fatto un casino con la fibra e tutto. Ma vicino a casa tua? E allora, lì all'incrocio di casa, più su. Ma quella che già aveva scintillato, che c'erano i tecnici dell'Enel l'altra volta? Sì, quella, ieri con babbo stavamo andando al ghero a fare un lavorettino al volo. E mi sono fermato proprio un po' prima perché c'erano le cavi, stavano toccando uno con l'altro e proprio sfiammava, non usciva la scintilla, alla fine sfiamma adesso, sfiamma dopo e si è rotto il cavo ed è caduto in terra. Cazzo, pericoloso, me. Pericoloso, vabbè che lì è 220. Cazzo, se è 380 o 10.000, cazzo, vi voglio vedere lì, sì. Già ti ricordi da poco è successo proprio quel casino lì a... dove era? A Nulvi mi sembra che sia, che è morto quel pompiere. Ehi, a Nulvi. È un casino, però stai dicendo, siamo da ieri che se ne va la luce, ritorna, è un mezzo casino. così, va. Eia, eia, adesso mi stanno problemi, lo sai, la C-Track? E tipo? Tipo che mi sta entrando olio nell'acqua. Olio nell'acqua? Oddio, ho la qualità testata o lo scambiatore di calore? No, ma ci mi piace, qualcosa nel monoblocco, no? Ho già visto un meccanico. Praticamente si è bucato nei capini praticamente del circuito dell'acqua, diciamo, dai. È un difetto che hanno con le macchine e anche le Peugeot a lungo andare. Si conferma, anche il mio aveva la Peugeot 104, è successo la stessa cosa, Massimiliano. Ho bruciato la lettera testata. E quella le conviene, Gavi? Fatti lavoro subito. No, Massimiliano, io già fatti fuori. Oh, quella io oramai, cazzo, mi dispiace tanto, cazzo, perché non ricordo. Cazzo, da poco ho fatto la frizione, ho fatto tutta la messa a punto. Adesso, sto cercando un'altra, perché prima o poi mi lascerà a piedi, Ho fatto già il lavaggio nella vaschetta, perché è una vaschetta proprio che lo vedi l'olio, capito? Nella parte di sopra c'è proprio una chiazza enorme, e più va avanti e più entra olio, capito? Beh, allora fai una cosa, cercati un motore per quella macchina e tienitela, scusa. Se trovi un motore, è un punto, trovare un motore già è un punto di domanda, perché se ha lo stesso problema, tu acquisti un motore dopo, tanto ci vuole, prendere un motore, vabbè, un motore vecchio, e rimetterlo, spendi circa sulle 700-800 euro, se non 1000 euro pure. A questo punto, non so se ne vale la pena, è un punto di domanda proprio. Gavi, ma con 1000 euro cosa prendi? Non lo so con 1000 euro poi cosa riesci a trovare, qualche garaggio, sì? Non so, bisogna chiedere a Stefano, vedere un po'. Chiedi, Gavi, perché mamma ha speso 300-350 euro per fare guarnizione alla testata e vanno di nuovo la macchina? Ma claro, ma non è questione di... Non è un problema proprio, è un problema di monoblocco, capito? Di conseguenza devi cambiare tutto il motore, c'è poco da fare. Ma non hai i capelli o quell'altro che c'è su Amulus, come si chiama? Non c'hanno monoblocco, quelli che fanno revisione del testato non c'hanno monoblocco di quella macchina lì. Guarda, domani chiedo, lunedì devo vedere a Danilo, uno che lavora da Marcello, e dico se di controllare se c'è qualche monoblocco di buono, perché lui è meccanico tra l'altro, è molto bravo anche, se c'è qualche monoblocco di cos'è una C3, di che anno è? Non ho capito, Gavi. Ho detto, forse mi si è staccato il microfono, ho detto che è una C3 1100 del 2007. C3 del 2007, non è di nuovo, però che avrebbe portato la radio e glielo chiedo di dare uno sguardo se c'è un controllo, di controllare dove c'erano tutti i monoblocchi, perché lo smontano tutto e la roba buona la mettono a parte, la buttano, capito, la mandano in fonderia. Quindi se c'è qualche monoblocco di C3 del 2007, 1100 a benzina, va bene. Avanti Massimiliano. Ehi, positivo. A me ma hai chiesto a Stefano vedere o Gavi? No, non sono andato da Stefano, non l'ho chiesto. E io l'ho portata a Gianluca, Gianluca aveva fatto la frizione, capito? Poi, questo 2 mesi fa, siccome stava un po' perdendo acqua, non so se te l'avevo detto, avevamo messo praticamente una tappa a falle, no? E adesso mi si è presentato questo problema qua, capito? Acqua non ne perde, però cazzo, ha fatto veramente successo qualche altro casino, capito? Ehi, aspetta un secondo, riprendi qua. E comunque Enrico, la macchina è in buonissima condizione, nuova, quindi spendendoci poco, se si trova un monoblocco, cazzo, conviene mettere a posto, ma stai scherzando? Assolutamente, conviene metterla a posto. Vabbè, adesso chiediamo comunque, poi già ti faccio sapere, mi avvicino da te al laboratorio. Anche perché, Gavi, devo portare un alimentatore a controllare. Poi già ti faccio sapere che ha dei problemi. Eia. Ah, no, la macchina, guarda, a parte questo difetto va bene, cazzo, ha una bella ripresa. La Puglia ho fatto tutto, l'ho messa a punto. L'unica cosa che devo cambiare adesso sono le gomme, però adesso per il momento non le cambio. Ho questo dubbio qua. Vediamo un po', dai. Beh, certo. No, ma chiediamo proprio, se fa in Puglia, non c'è problema, c'è una micro. Io lo chiedo, tanto voglio portare anche lo specchietto della 147, che si è rotto una vite, ma l'ha capito, lo stai camminando, si vede male, quindi me l'ha procurato, me lo porto. Io lo chiedo, se c'è, di controllare se c'è qualcosa, te lo faccio sapere, quanto costa, se è buona, eccetera, capito. No, già è una persona seria, comunque non c'è problema. Avanti Massimiliano. Cazzo, è andato a fischiare di nuovo, ok? E vabbè, si è sentato un attimo. E perché chiaramente se riusciamo a trovare un monoblocco deve essere a posto, capito? Devo correre col rischio, cazzo, di mettere un altro monoblocco e poi, cazzo, prendere dei soldi e poi non andar bene. E non fa. Può essere qualche soffiatura, qualcosa, capito, qualcosa del genere che fa passare, chiaramente te ne sei lui alla vaschetta, e come faceva quella di mamma, le ha fatto la reazione attrezzata, però mamma, e poi penso che c'era qualche soffiatura nel monoblocco, e gliel'hanno saldata, gliel'hanno prima saldata, dopo il foro che c'era la spaccatura, rifigata, praticamente sicuramente al polso, non lo so com'è, infatti la valenziana tutta, la macchina è tornata a posto. E l'ho speso 300, poco più di 300 euro a Porto Torres. E ho ripreso, Ma è sempre nel bagno, sì. Ma dice che non va a sede Antonio. Ma io non paio 3, 4, 5 berrette, ce l'avevo bevuta, sì, Capito. Devi vedere un po', se non vale la candela, sennò cosa fai? Io ti ripeto, non so cosa potresti trovare anche con 1000 euro, capito? Quello almeno sai che è tutto nuovo, è la macchina abbastanza in ordine. Ehi, hai un po' di acciacchi, c'è anche di carrozzeria. Ti ricordi ancora quel sinistro che avevamo avuto quel periodo brutto, diciamo, l'ho lasciata così ancora, capito? E vabbè, a futidini, quello diciamo che il resto, la macchina è abbastanza in ordine, diciamo, gli interni sono nuovi, la macchina non c'ha questi grandissimi chilometri, poi devi vedere un po' tu, Gavi, cosa devi fare? In base di allusiai, no? In base a quello fai, in base a quello ti muovi. Sì, indubbiamente. Oh, 150.000 chilometri c'ha Mima, Massimiliano. Di già. Poi, buonasera a tutti, buonasera a te Gavino. E chi è? Antonio Zoggo. Ah, bombolino, ciao Antonio. Ah, vabbè, continuate che io sono appena arrivato e devo mangiare. Ciao, ciao. Ti ho sentito, mi sono messo a salutare. Scusate a tutti se sono entrato così di prepotenza. Ehi, ma ti fai sempre, va bene. Sì, scusate, vai, di prepotenza, va bene, vai. Buona cena, mi raccomando. Vieni a gocciare, Avanti, Massimiliano. Ehi, ciao a tu, buonasera, bombolino, bomboletta. Ciao Massimiliano, buonasera. Divido, e oggi? Gianda, cicchitumba. Ok, dai. Dai, ci sentiamo dopo, mi devo accuttare pure un letto. Stai facendo rubini, dai. Tu basta fare la brava la notte, o sta i murruggelli. Cazzo, sempre per le riflessioni, e ovvio si faccia la salita, si faccia la cosa, la retta, poi si faccia da rubini, ma boh, come due vongole sotto. No, non c'è rotto quando c'ero io per fortuna. Ok, dai, fate. Ecco, hai visto la tetto tua moglie, Vai, lavati l'odore di fa, vai. A chi sentito? È Joshua. Si è sentito, sì. Ma Giudito, vai che viene tutto concepito, vai lavati l'odore di fa, va vai. Ci sentiamo dopo, vai Gabri. Non è tu via con i fava. Va bene. Quindi sempre tutto in ordine, sta andando qua, ma se meglio sì. Io voglio che spinge sempre questo. E che non ci ha fatti, metterò come il 440, il 430, che peccato, però la spinta, la sentiamo 5, la sentiamo 9, quindi già sta andando là. Ehi, a voglia sta andando, cazzo, sei da 9 e 10, riportante bianca, c'ha picchi quasi di 30, a voglia. E io allora, cazzo, guarda, la radio apporta, guarda. Gravino! E tu come arrivi a Massimiliano? Non lo so, a me mi hanno dato un video, ho visto che stavo andando oltre il 30, quasi, sul ferrato. È un bel forte la radio, no Gravino? No, la radio è fortissima, va benissimo. Ma volevo sapere, Claudio, come ti arrivava a lui? Come tu gli arrivavi a lui, diciamo, dai? Non so, come ti arrivo io? Massimiliano, l'ha detto adesso. Ehi, l'ho detto adesso, gatto, sono quasi 9.15 a picchi di 30, a Puglia. Per il re. Ehi, casa re. Massimiliano, è 9.20 con picchi, è 9.25, avanti, Lucaria. Allora, sono entrata solo da farmi la pizza, la pizza, però non una pizza normale. Pasta spuglia, prosciutto, olive, tante cose, là. Ehi, è tipo canzone, anche io la faccio, molto buona, lo sai, con la pasta sfoglia, ma molto, molto buona. Io la metto tutto il condimento dentro, però faccio tipo canzone, la metto al forno, ma non abbiamo nada. Non lo so, ciao Galvino, ciao Massimiliano, riprende Massimiliano, là. Se no mangiamo un saluto. Ehi, ciao Lucariere, mettici i piselli in mezzo pure, che è ancora più buono. Avanti, Gavi. Ciao Luca. Ma come mai sei appena più basso, Luca? Ma hai cambiato posto? Ciao Gavi, sono qua dalla 25, dai. Giù alla latte dolce. No, il piselli no, Massimiliano, la fava tribongo io. Yes. Ehi, senti, Salvatore, attacca un po' questa radio, la voglio ascoltare. È arrivato qualche messaggio, mi hanno detto che c'hai la bella radio. Ehi, aspetta che abbia scrivania, però, ti faccio sentire la radio modificata, Gavi, aspetta che abbia scrivania, che ho due basi qua. Due basi, c'ha, capito? Due piedi e quattro zampe. Mi ha detto che ne ha tolto un bel po' di roba lì. Ha smontato antenne, insomma ha fatto un po' di pulizia. Era montato un'antenne, ma le radio sono aumentate, la posso diminuire. Ha preso vintage, diverse apparecchi. Ha preso una carriola piena e se l'ha portata a casa sua. E non penso un gruppo, no? Se vuoi Gavi ti faccio la foto e te la mando. Anche tu non metti poco di WhatsApp, dai, te lo messo d'accordo. Questo è il mostriciato, cambio. È bello, ecco l'elicottero. È appena aumentato, appena il segnale, sì. 9 più 32, 35 adesso. Sono solo la radio, se ti attacco l'amplificatore si copia sa. Il superacchio. Avanti Massimi. Ti hanno già avvisato che c'ho la radio modificata. Vai da dove ci viene poco a ricevo. Ero da mio zio, ti ripeto, sono salito verso le 7 qua. Quando l'ho acceso, ero tutta la sera da lui, già usai. Mi è arrivato qualche messaggino così. Chiara gara. Già va bene comunque. Bella forte. Ehi, questa è quella che ti ho detto l'altra volta, che ho visto, già la conosci bene, dai, già la conosci molto molto bene, stavo parlando con Gigi, quindi già la conosci bene, va bene, no, sono contento che funziona bene ed è bellissima, molto molto bella, Gavi, è tutta illuminata, qualsiasi cosa è illuminato. E poi c'è un bel rivestimento plastificato che alla fine al mondo non l'avevo mai visto così, è molto molto bella. Quasi quasi faccio l'Elbex così, Massimiliano, ma che te l'ha fatta? Fatta l'anno. Oh, no, va bene. Ma si assomiglia a quella che aveva Massimiliano. E c'è la gemella, per forza. È uguale a quella che c'è lui. Ah, ecco, ecco. E tu non la stai più usando, Massimiliano? Io ce l'ho, cambi io. Vedi, lo vedi? Ah, intendi, quando attacca lui già si sente, eh? No, io questa la voglio usare un po' a fare... Quando c'è propagazione, a fare due chiacchiere... nel canale 45 sia Massimiliano agli altri, dai, perché l'ho sempre avuta, poi l'ho mollata. Massimiliano, hai visto che non lo sta facendo più il difetto del microfono, mi ha detto tu, hai visto? Positivo, vabbè, io quel microfono, Claudio, ce l'avevo buttato dentro l'escavatore, tu fatelo un conto, c'è stato un periodo che ero senza aria condizionata, quindi lo volevo a sporto all'aperto, quindi polvere l'ha pigliato a lampadura. Poi l'ho portato a casa, l'ho buttato in quella cassetta che tu sai, e è rimasto lì. Ehi, l'ho tutto pulito già, come ho tolto il tappo, mi farà un rimoltabile di sabbia. Non era sporco, ma si vedeva davvero. L'ho tutto pulito con la pilina e poi l'ho spruzzato lo spray per contatto e l'ho richiuso, non ho toccato a niente. E infatti no, adesso non lo fa più, già va bene. Guarda con la radio, con l'eco chiuso, oh Gavi, la radio che c'ha questa bestia, guarda. Con l'eco tutto chiuso e il microfono normale, guarda. Picchi di 40 watt c'ha. Sì, si vede. No, ma va benissimo. Poi con l'elicottero aumenta notevolmente di più. È più efficiente come cosa, come corposità. Ehi, vabbè, ma non ero più usare questo o così, dai, già va bene, tanti sono abituati a sentirmi con la radio forte, quindi microfono normale, così tutto chiuso, va bene, no Massimo? Sì, sì, prova il Michigan a metterlo più o meno a mezzogiorno, giusto per vedere. Allora, così è tutto aperto, vediamo un po' così è tutto, così a mezzogiorno, no, non mi piace, è troppo bassa la modulazione. Cazzo basso, cazzo c'è basso. Vabbè, mettilo verso le ore 3 invece. Alle ore 3 dove? Ancora a sinistra? No, verso destra, qua. Alle ore 3, verso destra. Quindi poco più della metà, va? Bravo. Ecco qua, così è poco più della metà. Cazzo, è bella anche così, per fare quasi così. È bella lo stesso, ma è forte lo stesso, no Gavi? Sì, così va benissimo. Ascolta, ti ricordi più o meno quando trasmettevo da casa la differenza che c'è da qua, dal lab, dai, diciamo, come segnale? Gavi, poca differenza noto io. Allora, qua c'è 9 più 30 e di là eri più o meno lì, tra il 30 e il 35 anche a volte. Sei davanti a me, ti vedo, capito? Ti vedo, è un segnalone allucinante, proprio fortissimo. Ti ricordi la prova che avevamo fatto una volta, c'era Massimiliano lì da te, eri fortissimo. Massimiliano, una domanda, quindi senza eco, in locale così a mezzogiorno, quando apro l'eco lo metto tutto al massimo il Mickey Gain? Per me sì, per me va bene, per me è una buona maletta, pure quella normale, però... per farti capire, così è buona la radio, ecco, se devi fare quasi o così. Ehi, ehi, è positivo, eh. Va bene, lo lasciamo così, allora quando metto, inserisco l'eco, praticamente metto, aumento appena appena anche il Michigi, dai, magari non lo metto al massimo, come mi ha detto Gigi, perché abbiamo fatto le prove con Gigi e mi ha detto così anche lui. Avanti, Gavi. Eia, eia, fra poco vi lascio, che è arrivato, sono già alle 8:05 e chiudo. E niente, dai, altri 5 minuti di ascolto e poi ci salutiamo. Eia, posso entrare un attimo? Ehi, ehi, andiamo via, avanti, vieni. Papa, Gavi, quanto ti arrivo in laboratorio? Allora, mi arrivi 9:20, dai, 9:20, radio 5. Kappa, quasi, pure tu stai toccando il rosso, sei 9:25 pure tu qua, la voglia che va bene, ma io da quella zona sono favorevole. E io sto scendo con 4 watt, Antu. Kappa, trovarsi una cannonata in hobby, sì, una cannonata. Ok, dai, vi lascio che io devo sistemare qua. Ok. Ti arriva quanto mi sta arrivando a me, 9.20, dai. Già va bene, capi? No, qua c'è 9.40. 9.40 sì, capi, qua. Più o meno lo segnale che ti arrivo io, dai. Va bene. No, Massimo, così tengo in considerazione questa cosa, capito? Lascio così il Mickey Gin e quando apro l'ecco lo tiro appena più giù, dai. Va bene, riprendi. Ehi, ehi, positivo, avanti, chi vuole entrare? Boh, forse c'era qualcuno che voleva entrare, va. Va bene così anche, va. Lo puoi lasciare anche così, anche se apri l'ecco, la radio è un bel forte lo stesso. Ascolta, guarda il segnale così com'è, che poi aggancio a vedere se va tutto bene, perché Gigi non me ne ha dato di controlli esatti. Così com'è il segnale, anche sul parlato? Allora, così sì, Santiago 9 a picchi di 9.10. Aspetta che aggancio, eh. Allora, così agganciato in terza marcia. Terza marcia, Massimiliano. È aumentato qualcosa? Ora. Guarda, sì, da 9.10 a 9.30 a picchi. Fate l'ugonto, già va bene allora, ma già la luce verde che lampeggia, perché è un bel distante l'amplificatore, capito, alla fine proprio della serie dei vintage, bello ordinato, bello compatto. E da te Gavi, mi senti, sì? Abbastanza forte, 9 più 30 con picchi 9 più 35, segnale 10 di radio. Perché questo amplificatore c'ha, l'ho notato anche sui vintage, no? Quando lo inserisco mi aumenta anche la radio, è maledetto, un bel amplificatore allo stato solido. Ti ricordi quello che c'è a Massimiliano grande a 2.20? Io ce l'ho a 1.20 là. Solido, fai quasi 9.20, prima marcia, terza marcia 9.38. Ciao Claudio, ciao Massimiliano, ciao amico, non ho capito chi è. Ciao Muscolo, ehi, grazie del segnale. Non è al manetta, non lo voglio usare al manetta, tanto lo so che picchia forte con questo tipo di radio. Avanti Gavi, è entrato Tino Muscolo. Un saluto a Tino. Come ti arrivo T da queste parti? Buonasera, 9.10 quasi, con picchi a 9.10. Va bene, tu lo stesso, 9.20 e 5.5 di radio, dai. 5.5 di radio. Ciao Tino, buonasera e ben scusolato. Eia, ciao Massimiliano, non so più fermi siete. Eia. Casotto, dai, non mai riesce il sole. E la ora, speriamo che riprendiamo da lunedì, se no che è un giramento di scatole, sta fermo. L'ho registrato col fischio, capito, ora stiamo usando, se mi posso permettere. Sto usando, cioè, riparazione, questo Intec FM500S, normale, con 4 watt. Ah, vabbè, zona Sassari? Sassari, sì, zona via Napoli. Anche via Napoli arrivo, eh. È più giù di me, Otti. Adesso ho messo in quinta marcia, Massimiliano, quinta marcia, ora. Sei delirato, ragazzi. Lo sai che a me è rimasto stabile? Ah, vero? No, allora aumentiamo ancora. No, sempre 9.38, Mazza che ne rivaria. Ah, Claudio, sei a fondo scala qua, cazzo. Mi sta crepando lo smitter. Sesta marcia, non perdona questo, siamo 600 pieni, oltre 600. Com'è lì da tettino adesso? 40 non ci arriva, cambio. No, negativo, ci manca una tacchetta ai 40. Vabbè, facciamo entrare un attimino questo break, ho visto che... Anzi, non ho visto, perché io ascolto, non vedo, cazzo, che sono abituato ad ascoltare. Un innesco, avanti, chi è? Sì, non so neanche chi sia. No, sta innescando, sta. Con la capirti, tutto innesco forte. Se c'è qualcuno che ha capito chi è, lo faccio entrare, io non ho... non sono riuscito. Bene, si vedi. No, neanche io sono riuscito a capire la sua modulazione, diciamo che se riesco non riesco a capire chi sia. No, neanche io ho capito chi è, non lo so. Oh Tino, la radio com'è col microfono normale, va bene? Ottima, va bene, non è la tua solita, però bella amplificata, forte, va bene, piacevole. Bene, ok. Sesta marcia, Massimiliano, sesta marcia. Va bene, buono, Michigan è tutto aperto. No, Michigan è sempre a mezzogiorno e un quarto. Aspettami, Michigan è un po' a maletta, quasi. Eccolo qua, adesso è tutta maletta, il Michigan è capo del rosmetro. Cazzo, guarda quanto ha aumentato la radio, noti. A voglia. Io l'ho premesso leggermente appena più basso, ma non tantissimo, proprio un cc, giusto per quei picchi di tonalità che magari a volte si danno e va, però non va bene. Guarda, l'ho abbassata di due tacche, adesso è abbassata di due tacche, ti se va bene così, così la lascio stare, di un riferimento, dai. Massimilia, ti posso dire una cosa? Dai, dimmi. Adesso che ha toccato il Michelin, ha toccato anche 9.40. Te lo sono i zelli. E sciuga, c'è una radio spaventosa, bella. Bella così, chiova. Puntella Tino, puntella. No, ma è il lavoro che fa con questi baracchini, quel lineare, Tino, è una cosa spettacolare, credimi, veramente. Veramente spettacolare qua, è una cosa allucinante, perché aumenta anche di radio, non distorce, ti dà tutta la potenza immaginabile. Veramente molto molto bello quel lineare, Massimiliano. Avevi ragione, veramente. Avevi ragione, spendili una volta e sei a posto. Cavie, ha già citato un anno, ma pigliarlo, ma l'ha già ciappato, però. Poi abbiamo interpellato per il tuo, gli ausiali. Abbiamo cercato uno uguale. Sono belli, quelli sono winner, però li faceva la Bias, capito? Bello Massimiliano, sono contentissimo, guarda, non ha niente da invidiare all'RM Italy, è una cosa spettacolare, veramente, mi appassiona tantissimo, veramente tanto, perché non è che devi stare, anzi adesso lo stacco, non è che devi stare a cincischiare, però o ce l'hai una cosa bella che funziona, oppure si rovina il luci. Riprendi Gavi e fai girare che stacco l'amplificatore, eh. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. Hai risolto il problema del microfono? Sì, non lo conosco. Ascolta, Massimiliano, ci sentiamo prossimamente, che adesso chiudo qua. Un saluto a Tino, a Claudio, che è entrato poco fa. Ci sentiamo alle prossime, dai. Niente, ci sentiamo prossimamente. Ciao a tutti. Ciao Gavi, ci sentiamo. Fatti sentire gli alusiai. Ciao, buona serata e buon tutto. Ciao Gavi, un abbraccio. Avanti ti. Ciao Gavi, buona serata, ciao, ci si ascolta. Gianni, ma poc'anzi eri tu? Eia, sì, ero io, è il Galax che mi stanno problemi, non lo so cosa mi sia successo. Non ho toccato nulla, non dite cosa ho toccato, però non ho toccato nulla. Sto uscendo liscio, normale, e stanno con questo problema. Ma era già dall'altro giorno che lo stavo andando, adesso provo a pulirlo, se non è quello lì lo porto al dottore. Conviene, perché non so se è attaccato poc'anzi, quasi lo stesso segnale di Claudio, però ai mischi. No, ero liscio come l'olio, liscio. Se attacco, non lo so quando arrivo, possiamo fare la prova. Prova, guarda. Controlla. Adesso sono attaccato, guarda, 1, 2, 3, prova. No, allora è molto di più, fai da 9.30 a 9.50. Cavagama, va bene. Niente, l'apparato lo tolgo da qua, dalla sua posizione, rimonto il coperchio, gli do una pulita, solo una pulita, poi se non c'ha... Cosa mi sono accorto? Che quando tu il commutatore non te l'ho fatto dire, mi manda a laterale la questione, ho toccato il commutatore e adesso sta cominciando a fare questo lavoro, adesso non so se sia Massimiliano, da te passo io. non lo so, faccio così, sì, mi sputo un po' di spray, un po' di aria, adesso si tra, forse se ricambiamo qualcosa.